Leggo dal comunicato stampa, tanto per cambiare: in occasione della ricorrenza del centenario della rivoluzione russa, oltre 70 capolavori assoluti provenienti dal Museo di Stato Russo di San Pietroburgo testimoniano la temperie culturale di un periodo vibrante e irripetibile. La mostra, curata da Evgenia Petrova, vice direttore del Museo di Stato Russo, e Joseph Kiblitsky del medesimo museo, propone opere di Nathan Altman, Natalia Goncharova, Kasimir Malevich, Vasily Kandinsky, Marc Chagall, Valentin Serov, Alexander Rodchenko e molti altri, ricostruendo i movimenti culturali della Russia di inizio Novecento, dal primitivismo al cubo futurismo, per approdare al suprematismo e al costruttivismo, in bilico tra l'espressionismo figurativo e il puro astrattismo. Sentiamo che cosa ho registrato ieri. Questa mostra rappresenta un sogno, un'utopia, come dicevamo ieri con Petrova, ma un'utopia che si è trasformata in uno scopo, perseguito con tenacia e coraggio, per restituire un sogno in un mondo che non sogna più. Offrire al nostro pubblico, di vario pubblico, quindi pubblico generico, ma anche scuole, giovani, cioè gli adulti di domani, una proposta culturale non banale e che travalichi anche il momento effimero della esposizione. E ora diamo la parola a Eugenia Petrova, la quale, per quello che ho conosciuto e per quello che potrete sentire, è una donna di grande cultura, con una visione progettuale inusuale, che ha visto in questo spazio, da un punto di vista di spazio logistico e simbolico, la possibilità e l'opportunità di mostrarci una parte del suo museo. Il che significa, se volete vedere tutto il museo, dovete poi andare a San Pietroburgo. Buongiorno a tutti, e grazie perché arrivate per nostra presentazione e per la nostra mostra. Grazie. E dopo a Russo. Italia è la strana, che l'Italia è il paese dove l'arte russa è conosciuta meglio che in qualsiasi altro paese del mondo. Qui si conosce molto bene l'arte dell'avanguardia. Ci sono state mostre delle personali di Chagall, Malevich, Kandinsky e di molti altri artisti russi, per cui io voglio mettere l'accento subito sulle differenze delle nostre mostre da quelle che ci sono state prima di questa. Se una volta si parlava di rivoluzione, una ventina, trentina di anni fa, venivano mostrati dei quadri sul tema della rivoluzione, che raccontavano la rivoluzione. Se si parlava dei primi 30 anni del Novecento, si mostravano soltanto le mostre dell'avanguardia russa. Quindi veniva quasi completamente cancellato il tema, cioè spariva il tema della complessità che esisteva sia all'interno del mondo dell'arte di quegli anni, sia della società di quegli anni. Per cui quel filo rosso che percorre tutta la nostra mostra è proprio questo, quello di mostrare la varietà, la complessità, non soltanto delle correnti, degli stili, ma anche degli atteggiamenti degli autori verso la rivoluzione e dei pensieri che c'erano in quel periodo, che ci sono stati nei primi 30 anni di vita del Novecento. L'arte di quel periodo era gli artisti, il mondo degli artisti, erano artisti che conoscevano già molto bene l'arte dell'Occidente, e quindi c'erano tutti i presupposti perché nascesse un grande fermento artistico, perché si potesse dare vita a quella che poi è stata l'avanguardia. Io spero che la complessità e la varietà di questi stili, di questi atteggiamenti, delle correnti, di questo fermento che c'è stato nei primi 20-30 anni dell'arte russa, siamo riusciti in questa mostra con un numero comunque limitato di opere, però mi auguro proprio che il pubblico possa apprezzare e che possa intendere che cosa volevamo dimostrare. E l'ultima opera che noi mettiamo in una delle ultime opere in questa mostra, cioè il ritratto di Stalin che fu eseguito da Filonov, vedrete che è fatto in stile che non ha niente a che vedere con lo stile realista che invece voleva imporre e si voleva imporre in quel periodo. Там нет радости, там есть тупик, там есть чёрные глаза, там есть падение. Perché vedrete che in questo ritratto non c'è nessuna gioia, non c'è, si capisce di essere arrivato in un periodo buio dal quale non c'è uscita, quindi non c'è assolutamente quell'ottimismo che invece voleva il realismo socialista proporre alla società. Una mostra dunque non grandissima ma indubbiamente importante. Ci sono opere fantastiche tipo il quadrato nero, il quadrato rosso di Malevich, c'è uno Chagall da paura molto grande e c'è un meraviglioso Kandinsky. Direi che indubbiamente una mostra di questo genere in una città come Bologna ci sta molto bene naturalmente, e una mostra così vale decisamente i 14 euro del biglietto di ingresso, per cui andate a visitare ciao Coxo Spaziale. Forever us, forever us, in every breath, forever us, and though it hurts, I know it does, forever us, forever us. Forever, ever. Questa era, non me lo ricordo già più, Frida Sandimo, dall'album Flashback and Futures. E io intanto forever and ever continuo ad aspettare Fedra, che adesso sta arrivando, lo sento, anzi probabilmente aprirà la porta in questo momento. 3, 2, 1, no, non in questo momento, molto bene. Siete ancora sintonizzati su Radio Città Fujiko 103.1 con Coxo Spaziale e io ho finito gli argomenti. No, non è vero. Anzi, ci sono un sacco di cose da raccontarvi. Per esempio, siamo stati al Mambo, la mostra è fantastica, per cui invito tutti quanti a andare a vedere dopo l'inaugurazione, che è il 12 se non sbaglio, forse il 13, non mi ricordo. Mentre invece ci sono state un sacco di altre mostre interessanti, per esempio martedì scorso ha inaugurato a Forlì una personale di Elena Amersky. A Sterili Nature si intitolava la mostra, cioè si intitola la mostra, che appunto ha inaugurato martedì scorso. Io purtroppo non ci sono potuto andare perché forse, come sapete, al martedì sono a Torino come al solito a prendere del freddo, e la mostra è Sterili Nature, mostra personale di Elena Amersky, è un progetto di O Gallery, ovvero Olé Tapas Vino in via Marescalchi 22 a Faenza. Cavoli, avevo detto Forlì, scusatemi. Molto bene, comunque da domani su www.coxospaziale.blogspot.com troverete naturalmente tutte le informazioni, anzi semplicemente il link della pagina Facebook della mostra di Elena Amersky. E dunque, visto che la nostra cara Fedra continua a tardare, direi che a questo punto possiamo ascoltare un altro pochino di musica. È arrivata Fedra, siamo contenti e sta telefonando. Stefano, sono una quarantenne in crisi, possiamo dirlo. Possiamo dirlo. Ho la stessa età della nostra meravigliosa Fujiko, però io sono molto più in crisi di lei. Però sei anche pronto, molto... Giffo? Oh, ho sbagliato numero, mi scusi. Fantastico, abbiamo un numero di Giffo inesistente. Avevo provato a chiamare Gifu Fuga per Arte oppure Orchestra Moroni, come si chiama adesso. È diventato Gifu è diventato un'orchestra. Ah sì? È un'orchestra. Non lo sapevo. Comunque, alias Fuga per Arte, alias Gifu, provate a chiamarlo, ma al suo numero ha risposto una signora. Sì, siamo arrivati alla 199esima puntata. Come facciamo a farla 200esima senza di te? Facciamo 200 la settimana prossima? Appunto. Ci vieni? Ci sarai? Sì. Devo fare un po' un trasloco. La domanda vera è: avremo lo studio per registrare? Ma perché? Non l'hai prenotato? Sì, io ho prenotato. E allora? Però... ce l'avremo. Batti 5 per la 200. Ok, e avremo anche un ospite. Sì, questo sì, è sicuro. Questo è sicuro, abbastanza sicuro. Quest'ospite per la 200 è una gran sorpresa per me. Ah sì, certo. Non me lo sarei mai aspettato. Mai aspettato. Mai, senti, mai. Ma... potremmo anche averne due. Addirittura. Mm-mm. Wow, fantastico. Mm-mm. E dove vai a vivere? Si può dire? No, ah no, non è mica... Sicuramente non in radio, stai traslocando così. Ah, è ufficioso, no? È così. No, sono dei mobili di casa di una mia amica che me la lascia, vengono... che me li lascia e io li metto in magazzino finché non avrò una casa rimetterli dal magazzino. Perché, e dunque, sì. Com'è stata la tua settimana coxica, Feda? Ma in realtà è stato molto molto bello perché mercoledì scorso ho fatto quella serata, ho concluso il Festival per Aspera, la decima... Ma ormai erano 10 giorni fa. No, non era la settimana scorsa, il 20. Era qualche giorno fa. Sì. Ah no, è vero, perché adesso è venerdì, mi ero un attimo distratta, scusate. Vabbè, succede. È che questo coxo si sposta sempre, rimanendo sempre allo stesso posto. Mi chiedevo, ma venerdì lavori? Perché in realtà potremmo farlo anche live. Ma no. Sì, dai, io non so se questo venerdì lavorerò, cioè se adesso sto lavorando. Nel caso stessi lavorando, potresti venirmi a trovare venerdì prossimo, se lavorerò, però è anche festa, tu sei... Non lo so. Non l'Immacolata, so. Cioè la famiglia, andrai a farti le famiglie tue. Esatto, chi lo sa. Molto mettiamo bene. Un brano e proviamo a chiamare Gifu di nuovo. Dai, mettiamo un brano al volo, proprio così. Volante. In diretta, tipo Rat Race. Chi è Rat Race? Tu, ma che bel gnocchino che sei, Stefano. Ah, veramente. Cosa fate i capelli? Niente. Proprio naturale. The Hawkins. Proviamo a sentire molto sto Rat meglio Race. Che con la pizza. Grazie. Comunque. Can't see the day that I wait for myself and see my own way. No, it won't be the same. I can't grasp the scene. Oh, when I look in the mirror and see exactly what I want to see. No, that is not me. And I know that I should scream like Freddy, but I can't break free. And I stay here to make the biggest fall from a distance. You senti registrata, ok? No, non riagganciare. Non riagganciare. Questi erano gli Hawkins con Rat Race e invece adesso Fetra sta facendo questo. Dove sei? Aspetta, alza aspetta, il volume. Aspetta. Ecco, riproviamo. Eccoci. Io ci sono, sempre. Ciao, ciao Luca. Ah, ma te senti anche Fetra? Ti abbiamo, alla fine non funzionava niente, ti abbiamo messo sul viva voce. Ti abbiamo messo sul viva voce del mio cellulare. Pensa un po' che tristezza, che tristezza. La tecnologia ci supera, veramente, è che non so da che parte fare perché tu ti senta bene. Sei tornato a Bologna, caro, come stai? Bene, bene, che bello sentirti. Noi ci incontravamo spesso in stazione mentre io andavo a Milano e tu a Torino. Esattamente. Quindi adesso invece non ci incontriamo più, ma sono perché sono a Bologna. E perché sei a Bologna? Ma innanzitutto la mia famiglia, e quindi era tempo che io insomma facessi qualche passo verso di loro, che invece poi mi hanno detto: ma come torni a casa? Ma porti anche le tue cose, ma ti affitti un appartamentino vicino. Ormai mi avevano completamente dimenticato. E poi non penso di poter fare pubblicità, ma sono in un ristorante qui a Bologna dove faccio una cucina super alternativa ormai a quello che offre il mercato. Ah, non meraviglia! Si può, non si può fare pubblicità? Ma facciamola, no? Ma non lo so. Ma sì, vabbè, dai, potremmo fare invece che pubblicità una sorta di... potremmo fare un quiz. Ci dai qualche elemento? Esatto. Sì, beh, il ristorante di base siciliano, di cucina siciliana. Ma come mai? Perché? È un ristorante molto famoso a Bologna, ormai c'è da veramente più di 10 anni. Ed è un ristorante nel quale tu hai già lavorato. Quale ho già lavorato, comunque è facile, basta seguire il mio nome e si arriva subito a questo tipo di trattoria. No, la cosa figa, che vi dico, però l'unica cosa figa è che ormai, essendo ristorante di pesce, non faccio più il pesce che trovate in giro. E sono entrato in questo progetto che ho creato che si chiama Pesci Diversi. Ha. Pesci Diversi. Ha. E che cosa hanno di diverso? Quattro squame, ma anche il fatto che non sono più tonno, non sono più ricciola, non sono più quelle cose lì che trovate dappertutto e che vi dovete fare pure a casa, che costano un bordello e non ha alcun senso, ma sono frattaglie di pesce tipo fegato di rana pescatrice, lingue di baccalà, guance di tonnetto, pesce del lago di Sprintil con tre occhi, no, tutta roba super mediterranea, super sana, che non costa niente, aguglie imperiali, centrolo, sì. Senti, ma per un vegetariano come me c'è ancora da mangiare nel tuo ristorante oppure? La cosa più figa, Pasquini, è che c'è proprio una linea tutta veg. Addirittura, oh. Wow. Dobbiamo andarci a cena. Sono tutti super felici. Andiamo stasera? Potremmo. Stasera è chiuso, ragazzi. Stasera è chiuso, è lunedì. No, venerdì. È venerdì adesso. È vero, oggi è venerdì. È l'Immacolata. Come siete messi per l'Immacolata? Cos'è l'Immacolata? È l'8 dicembre. Stiamo registrando la trasmissione dell'8 dicembre. Sì, no, il giorno 8 dicembre mi risulta l'Immacolata. È un venerdì. Ah, un venerdì che si chiama Immacolata. Non si chiama Immacolata. È l'Immacolata Concezione. Cioè, è una festa. Sei più ateo te di me e Fedra messi insieme, è spaventoso. È un programma religioso, è diventato? Sì, è una festa. Allora, festività per la ristorazione non ne esistono, quindi noi non ci occupiamo di queste robe. Però siamo aperti, venerdì 8. Gli ha rimbalzato male la palla. Questa palla gli ha rimbalzato. Pensate, poi tra l'altro, per voi vegetariani, che questo ristorante dove non c'è mai stata carne, ci ho iniziato a infilare il maiale. Ah, fantastico. Pesce, perché Bologna è la città del maiale. Mi sembra giusto. Morale. Quindi hai buttato un bel maiale, una famiglia di maiali in mare, così che cominciassero ad ambientarsi, e dopo un po' gli sono venute le squame e questi sono i pesci nuovi. No, dobbiamo aspettare tipo 500 milioni di anni prima che ciò avvenga, ma io conto di esserci. Infatti, anche perché chi mangia sano campa centinaia di aree geologiche. Senti, ma il cenone di Capodanno l'avete organizzato? Ma basta! No, noi ti abbiamo chiamato... Pappalardo! Pappalardo! Ascoltami un attimo, a ascolta me. Ascolta Fedra, non ascoltare me. Ascoltami a me un attimo, se mi senti. Se no, diglielo tu, Pasquini. Sì. Allora, noi ti abbiamo chiamato perché, con grandissima gioia... per celebrare la puntata prima della 200esima, abbiamo deciso di ritrasmettere una rubrica che facemmo insieme tanti anni fa. Brividi. E quindi questa sera con la sua sigla dei Doors. Esatto, no, come con la sigla dei Doors, non ce l'abbiamo. No, sì sì che c'è. Ah beh, no, ci sarà, ok. Una ricetta notturna di Gianmaria Pappalardo. Non si ricorda neanche come ti chiami, come ti chiami di nome, pensa un po' come si è ammesso. No, che c'ha la G, la L. Giovanni. La G sta per genio. Luca Genio Pappalardo. No, e poi è Luca Giovanni, non è Giovanni Luca. Vabbè, insomma, questo qua. Matteo, qua. Marco, Giovanni, Luca Pappalardo, giusto? Ecco, sì. Siete molto ecumenici. Sì, perché noi ci teniamo al passo col contemporaneo. Il contemporaneo va verso il consumismo natalizio e noi ci adeguiamo di massa. L'abbiamo detto insieme, adeguiamo. Ho capito, ma cosa vi sparate di cucina notturna? Adesso, senti qua. Ciao! Sushi. Eccoci di nuovo qui per la seconda volta insieme a il nostro chef. Come stai, Luca? Sto bene. Come hai trascorso questa settimana? Ah, guarda, pensando a questo programma. Ah, davvero? Sì, ormai non riesco più a togliermelo dalla testa. Sono state note entusiastiche, la ricetta sul dubstep ha proprio spopolato, frittate volanti ovunque, perché non tutti riescono proprio a sciogliere il polso con... Qualcuno mi ha pure spedito delle mutandine dentro una busta. Delle mutandine? Sì, da uomo, quindi insomma, ci ho guadagnato molto, però insomma i fan... Della tua taglia almeno? No, erano mutandine strane. Filo davanti, non dietro. Ah, però... Non possono servire per arrotolare l'arrosto. O forse per filo interdentale, per pulirsi i denti dopo aver mangiato l'arrosto. Beh, comunque io sono entusiasta e ancora comunque emozionata da questa contatto, presenza. Fai bene a conservare l'emozione, perché è quello che noi vogliamo trasmettere, giusto? L'emozione. Io attraverso la cucina, tu attraverso la tua bellissima voce. Oh, grazie. Prego, figurati. Va bene, sono il tema di oggi, tema... Sì, sì, sì. Come scuola. Dopo il dubstep abbiamo deciso di dedicarci a quali? A me piace il reggae. Davvero? Sì, molto, molto. Non l'avrei mai detto. Invece devo dire che è un ritmo che aiuta in cucina, è un ritmo rilassato, molleggiato. E quindi andiamo col reggae? Sì, assolutamente, guarda. Ma guarda caso c'ho anche la scheda del fruitore reggae. Ah, mio Dio, la scheda ormai secondo me diventerà un must delle nostre trasmissioni. Beh, è l'unica cosa a cui io mi appiglio. e quindi in allora, questa arrampicata sugli specchi costante. E abbiamo svelato che la nostra puntata sarà dedicata agli utenti del reggae, del resto è stata anche introdotta da un pezzo del mitico e intramontabile Bob, e quindi procediamo alla lettura. E l'età dei fruitori del reggae è tra i 20 e i 50, con presenza di guru, talvolta anche ultra settantenni. È vero? Sì, confermiamo. È vero. Guru poi è la parola giusta, perché il reggae ha questa connotazione religiosa di cui penso parleremo dopo, nelle sue origini. Ah sì? Pensa che i Rastafari, il rastafarianesimo, è una religione che nasce dal cristianesimo. Beh, nasce in America Latina? Nasce ovviamente in Giamaica. Ma la sua origine ancora prima è in Etiopia. Addirittura Rastafari sarebbe questo re che viene considerato il discepolo di Cristo, anzi proprio il nuovo Cristo venuto in terra. Pensa un po'. Quindi ha una connotazione religiosa fortissima la musica reggae. Bob Marley era uno di questi adepti. Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes. Proseguo con la scheda. Certo. Al secondo posto abbiamo come al solito il nostro look. In questo caso è un look unisex. Allora, dreadlocks, tra parentesi, più lunghi più rispetto. Vabbè. Jeans, preferibilmente a zampa. Magliette di cotone. Sono graditi colori sgargianti e ninnoli. Nel complesso l'aspetto deve risultare poco curato. Conveniamo? Cioè, un po' fredda, laddove magari la cultura era religiosa, forse questi ninnoli allora si riempiono di un valore simbolico. Cioè, oggi il trasandato va molto tra i ragazzi, sembra che sia anche quello lì di moda. Non curarsi, poi magari si è proprio pulitissimi sotto, il look non è certo il frac. Non sì, è il i tight, jeans finto strappati. Finto strappato costa 300 euro il jeans. Però quello strappato è più da dubstep. Noi sì, invece qua abbiamo un riferimento forse all'immaginario anni 60 e 70, figli dei fiori. È sempre un po' un copiare, ecco. Un postmoderno non si scappa mai. No, esatto, no. Col valore che lascia e che trova. Nell'arte, nella musica, nel modo di vestire, non nel modo di mangiare. Il modo di mangiare si rifà alla tradizione rispettando la tradizione. Questo è importante. Non scopiazzandola e rendendola più appetibile. La tradizione vince sempre nel cibo. Aprirai una sezione epistemologica? Sì, se mi spieghi cosa significa. L'attività fisica. Abbiamo passo largo sul posto a gambe piegate. Movimenti cadenzati, sempre più morbidi e, virgolette, slentati, via via che prosegue la serata. Bene. E gli additivi, privilegiata cannabis, sativa e indica, in mancanza tollerati i suoi derivati. Sono luoghi comuni questi? Ora vogliamo fare la puntata e sono tutti degli accannati? Ma vogliamo dire questo? Direi di sì. Sì, va bene. Giusto. No? No? Diciamo che non sono solo loro. Fare no, così. Non sono solo loro. Poi adesso che mi hai aperto, svelato l'orizzonte della misticità, chissà, no? Sì, la cannabis ha qualcosa col mistico, no? Ma con la cannabis, con la canna, con la canapa. Con la canna. Si poteva fare un sacco di cose. Cioè, io ho questi torte, biscotti, no, fumarla. Io penso in tasca ho un portamonete di cannabis sativa. Quindi, insomma, non mi fermate per rubarmi il portafoglio. Non si può fumare, poi è vuoto, quindi. Ma non si può fumare. Ma si potevano fare anche combustibili, tessili. Potremmo fare una puntata esclusivamente sulle cose, gli effetti benefici della cannabis nella struttura industriale mondiale, sia alimentare che tessile, tutto quello che vuoi. E anche questo lo approfondiamo via mail. Sì, va bene, però okay, insomma è giusto dirlo, soprattutto anche medica. È vero, anche quello. Chiudiamo la parentesi e ritorniamo a noi. Adesso che abbiamo gli elementi attorno a cui ragionare, vogliamo subito svelare la ricetta? Ah, la ricetta, guarda, è una ricetta pigra per pigri. Perché? Perché probabilmente l'utilizzo della cannabis tende a rilassare, a far sentire più comoda la persona. Ad entrare in un'altra qualità temporale, forse. Oh, che bello, sì. E quel senso di rilassatezza che ogni tanto, penso, ognuno di noi si dovrebbe godere all'interno della giornata, della settimana o del mese. Poi c'è chi lo raggiunge in altro modo e chi attraverso... Insomma, in Italia credo che non sia legale l'utilizzo della cannabis, quindi non so quanto noi ne possiamo parlare da questo punto di vista. No, ne parliamo solamente riguardo a quello che è la cultura reggae nel mondo in generale, quindi questa è una portata internazionale. Sì, quindi non daremo ricette di torte con la cannabis che non si possono fare, di biscotti con la cannabis che non si possono fare, eccetera eccetera. L'unica cosa che ha a che fare con la canna in queste ricette sarà lo zucchero di canna. Ah, ecco, non ci poteva mancare. Di canna da zucchero, non... Vabbè. No, okay. Se poi uno li sente dire canna, lo sente alla radio, a un certo momento uno dice canna, io ho canna, no, canna da zucchero, zucchero. Quindi volevo proporre una ricetta, qualcosa che amplifichi la salivazione. Che fa sempre bene. Perché se uno volesse rullarsi una sigaretta e si trova con la bocca impastata, insomma, chiudere la cartina senza saliva si fa fatica. Quindi qualcosa che, insomma, più uno fuma, perché in questi ambienti spesso si fumano le sigarette. Sì, sono spesso all'aperto. Esatto, e quindi si possa... È qualcosa che non unga le mani, così che anche la cartina possa scivolare piacevolmente tra le dita. No? Va bene? Sì, va bene. E poi una cosa pigra, dicevo, cioè qualcosa che puoi portare nel tuo tascapane, che è una parola forse adesso desueta, potresti prendere il vocabolario e cercarlo. Quindi, ed è l'ho voluta intitolare Il pranzo a sacco del Rastamanno. Scoscio di applausi e sigla, giusto? Giusto, accendiamo i fuochi. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Yeah. Ingredienti. Un panino. Di qualunque dimensione, di qualunque qualità. Buono, insomma, non pane stantio. Un panino, quello che vi piace di più. Del salmone affumicato, erba cipollina che trovate in qualunque supermercato, un arancio in stagione, quindi ci siamo, e della senape di Digione, che è uno scioglilingue. Poi, vi suggerisco anche una bevanda, perché bisogna, ripeto, tenere la bocca abbastanza libera dai nodi, dagli impasti. E quindi per la bevanda vi dico di comprare una bottiglia da mezzo litro d'acqua, semplicissima. Di quelle di plastica? Di quelle di plastica, vanno bene. Poi 2-3 lime, zucchero di canna, che le bustine le trovate pure al bar, ve le potete fregare. Zucchero. Scusa, adesso sono siciliano, è spesso la mia. No, era per dire di canna, ma zucchero. Sì, certo, sì. Ed effervescente, una marca dirò adesso. Oddio, si può? Sì, Brioschi. Vi direi la citrosodina, però è un medicinale, quindi evitiamo altri additivi, oltre che probabilmente verranno assunti. Ed è una ricetta molto facile, insomma, un panino siamo tutti capaci a farlo, no? Penso di sì. Benissimo, allora, senza tagliarvi le mani, affettate il panino, lo tagliate a metà e lo lasciate lì ad aspettare. Sbucciate l'arancio e lo frullate insieme a 2 cucchiaini di senape di Digione. Un arancio, 2 cucchiaini. Bisogna spellarlo, sbucciarlo, togliere... Sbucciare l'arancio, già. Ma togliere anche la pellicina degli spicchi? Ma no, dai, frulla tutto, facciamo una cosa tranquilla. In realtà potrebbe essere anche montata con un filo d'olio, potrebbe anche essere filtrata in un passino. Io ve le dico queste cose, però magari la pigrizia... È vero, perché dicevo, è una alla base di questa ricetta non ve lo permetterà, insomma. Non so in che condizioni sarete mentre farete questo panino. Esatto, quindi manteniamo il relax. Poi tagliate l'erba cipollina non va tagliata a coltello, no, perché sennò annerisce, va tagliata secca con delle forbici, zac zac zac, sì, fate delle piccole canne, delle tubicini, dei piccoli tubicini di erba cipollina. Poi mettete nel panino le fette del salmone, quante ne volete. Dopodiché spalmate la salsa di arancia e senape su una parte del panino. Solo su una parte? No, se poi siete proprio lubrici o lubrichi, come si dica, non lo so, mettetela da tutte e due le parti. Fatto sta che non dovete esagerare, perché la senape è molto forte. Invece dovete dare quel senso di piccante e agrumato allo stesso tempo, che col salmone, diciamo, che è la morte sua, appunto. E poi mettete questa erba cipollina dentro, che dà invece il tocco di freschezza. La cipolla rinfresca, sappiatelo. E vi fa bene, vi dico, per il pastone fa proprio bene. Finito il panino, lo incartocciate dentro dell'alluminio. Alluminio. Sì, potremmo dire quello che si usa per il crack. Alluminio. Ma no, quella è un'altra serata. Esatto. Poi ci si confonde. Cioè, quindi la pellicola no, perché... La pellicola tende a far... flosciare gli ingredienti. Insomma, non è per tutto la pellicola. Mentre l'alluminio invece vi tiene fragrante il pane, eccetera, eccetera. Bene. E questo è uno, però c'è anche la bevanda, dicevamo. Se voi aprite la bottiglietta d'acqua da mezzo litro e spremete dentro due o tre lime, secondo il vostro gradimento... No, non trabocca, c'è sempre uno spazio. Però così. I tre lime saranno più di quello spazio. No, poca roba. Il lime è piccolo, è duro e non ha tanto di quel liquido lì. In realtà uno di questi potreste anche tagliarlo a cubetti e ficcarglielo dentro. Buono, anche carino. Che poi se vi resta in bocca un po' vi rinfresca anche quello. Esatto. Dopodiché mettete uno o due cucchiaini di zucchero di canna, sottolineiamo, che è uno zucchero non raffinato e quindi è uno zucchero non trattato, è uno zucchero che fa bene, non è sbiancato, ecco, è uno zucchero abbastanza naturale. E poi, sorpresa, l'effervescente brioschi per dare un senso di grinta al vostro drink. Mettete tutto dentro, sbattete, chiudete, sbattete, miscelate e o bevete subito che vi può venire un ictus con tutte le bollicine che verranno fuori, oppure lasciate che si depositi e lo bevete mentre, nei momenti in cui ne avrete bisogno. Portatevi tutto dentro a un tascapane, a uno zaino, a una borsa, quello che volete, e durante la vostra serata potete mangiare il panino e bere la vostra bevanda, intervallata poi con quello che diavolo volete lì nel posto dove vi trovate. E questa è la ricetta. Bevanda pronta all'occorrenza, salivazione promessa e garantita. Per forza, col brioschi sicuro. E le immagini sul tascapane e sul link. Benissimo, trovate tutto sul blog. Grazie. Che cos'era l'immagine? L'immagine era una diapositiva su, l'avevi detta te. Di che cosa? Non ricordo. Dove la spengo? Cosa cenere? Una volta appurato che l'importante è star sotto o dentro piuttosto che sopra e fuori, esatto. Possiamo concludere con i saluti. La 199esima, l'ultima puntata dei 100 Coxi. Dei 100 Coxi? I 100 Coxi sembra una maledizione, capito? Che comunque è la maledizione di Gifo, cioè hai cambiato numero di telefono, non ci stalker no, più e non ti conosciamo. Secondo me ci ha sgamato 051 che potevamo essere noi e quindi ha chiesto alla mamma di rispondere. Numero 2. Ma la prossima volta nasconderemo il numero, Gifo, esatto. Non preoccuparti. Scopriremo anche come nascondere il numero. Dai, però ci ha dato l'occasione di sentire un po' quel vecchio pappalardo. Quel vecchio porco di pappalardo. Ma cosa dici? Che ha introdotto il porco nella cucina pesciosa. No, infatti, veramente, cioè, già apri quel ristorante siciliano in via San Vitale. Ah no, no, non è vero, ci lavorava già e poi non potevamo neanche dire in che il ristorante lavora. E perché però, che non mi ricordo? Non ho capito perché. Comunque, non mi ricordo come si chiama, per cui non lo menzioniamo. Io me lo ricordo, ma non lo dico. Tu non lo dici, però io dico che è in via San Vitale, per cui andate su e giù per San Vitale, troverete un ristorante siciliano. Di pesce in cui però, esatto, e però c'ha tutto un menù vegan, apposta per noi vegetariani, no? Perché Fedra sei diventata vegetariana da questo momento. Al contrario. O contraria. O contraria. Sei diventata super porca. Oddio mio. No, qua se fossi Upside dove te l'avrei mandato, se fossi a pieno regime. Ma esatto. Sono una quarantenne disperata. No, infatti devo dire che mi sta venendo voglia di tornare nell'altro studio e fare un live. Quando è che... Ma sì, di fronte, qua ci viene il torcicollo. Sì, infatti. Molto bene, questa era Coxo Spaziale, la 199esima e puntata. E questa era l'arte che non avreste mai avuto. Esatto, comunque. Piatte che abbiamo parlato poche, però no, comunque. No, non è vero, tutta questa meravigliosa cosa del Mambo, sì, infatti. La rivoluzione russa. Poi non ci... Anch'io avrei avuto qualcosa da aggiungere sulla rivoluzione russa. Se poi non ci sono andato... Ma ne hai un po' parlato all'inizio, no? Sì, ne ho parlato. Perché sai che io ho avuto la fortuna di lavorare a degli spettacoli sulla rivoluzione russa. Ah, che bello. Delle letture. Mm. Letture e spettacolo. E dopodiché sei diventata di destra. No. No, è successo fino a un paio no, di settimane fa. No, perché l'ultimo trend, non so se te ne sei accorto, ma stanno diventando tutti di destra al mondo. E fra l'altro anche uno spettacolo intero che è sempre un reading su I due treni della rivoluzione, che fra l'altro avrà anche date prossimamente, il cui autore e lettore, protagonista, insomma, è Ezio Mauro. Ah, ok. E è stata veramente una bellissima occasione, anche perché la produttrice Carmen Manti ha fatto una ricerca d'archivio sulle foto d'epoca che hanno accompagnato la lettura, poi Tommaso Arosio ha curato il packaging grafico, il concept grafico, ed io ho fatto un po' la mia parte aiutando come piccola di bottega, sistemando le foto e anche trasmettendo i contenuti. E devo come dire che mi tu? Sono estremamente arricchita di un sacco di contenuti. Due treni in particolare tratta di questo momento storico che è proprio all'inizio di quella che ha sancito la rivoluzione, di questi due treni che si incrociano, uno in cui ci sono l'imperatore Nicholas Romanov, Nicola, quello lì. E questo poi me lo correggi per favore. Ma sì, dai, dopo te lo correggo. Sì. E nell'altro Lenin, che praticamente vanno in direzioni opposte e segnano profondamente il corso dell'ultimo secolo in tutta Europa. Ma di questo magari parleremo in un'altra occasione, perché bene o male il centenario avrà anche degli strascichi nel prossimo anno. Ma sicuramente, anzi, ci sarà anche... Del resto io ho incanalato tutte le mie gaffe nella cosa più importante che avevo da dire stasera e ho fatto anche la tua porca figura. Fantastico. Coxica figura. Ciao. Bene, ciao. È stato bello. E anzi. Ciao, adesso andiamo a bere. Sì. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Crushing just how heavy things can get. Thousand albatrosses around my neck. Feeling like I'm the only one who's down on the floor. But I don't have to be lonely. Need the weight of the world, 'cause I see you. You see me too. It pulls me through. Watch you do what you do, 'cause you've got demons to fight. Wrong against right for the rest of your life. And I'll have battles to win without and within for as long. I'm in this skin. I hear a lot about what I should be. It's weird that no one thought of of my life. You have battles to win without and within for as long as you live. Of our lives, we'll have battles to win without and within for as long as we live.